non so chi ha scritto questo, ma qualcuno di intelligente scrisse che quando si è, diciamo, 8 anni, 9 anni, 10 anni, cioè quando si è ancora bambini, in qualche maniera si è già raccolto l'essenziale di quello che poi diventa i ricordi di una vita, insomma, diventano le radici, quelle che si chiamano radici. E, insomma, è una specie di miniera che si è costruita, sulla quale poi bisognerebbe riuscire a scavare il resto della vita. Siamo a Genova nel 1942. Renzo Piano è un bambino di 7 anni. Il padre costruisce case. È un uomo silenzioso, solido. Il bambino sa già cosa farà da grande. Da bambino, quando uno ha 10 anni, io sono cresciuto a Genova, che è una città relativamente, come dire, marginale, cioè non è una grande città, non è una grande metropoli, però con questo mare straordinario, col fatto di sognare, si diventa un po' sognatore, cioè sempre questo. Poi il porto per me era, mio padre mi portava in porto ogni domenica.